Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. In quei giorni K era stato avvertito per telefono che la domenica successiva ci sarebbe stata una piccola udienza sul suo caso. Gli si fece notare che tali udienze si sarebbero succedute regolarmente, se non proprio ogni settimana, almeno abbastanza spesso. Era stata designata la domenica come giorno di udienza per non disturbare K nel suo lavoro professionale. Gli fu dato il numero della casa in cui doveva trovarsi, una casa in una lontana strada di periferia, dove K non era mai stato. Ricevuta tale notifica, K appese il ricevitore senza rispondere. Se ne stava ancora pensieroso, vicino all'apparecchio, quando sentì alle sue spalle la voce del vice direttore che voleva telefonare, ma aveva la strada sbarrata da K. «Cattive notizie?» chiese il vice direttore in tono leggero, non per avere una risposta, ma per allontanare K dall'apparecchio. «No, no», disse K facendosi da parte. «Una domanda, signor K. Potrei avere il piacere di averla con noi domenica mattina per una gita in barca a vela? Ci sarà parecchia gente, tra cui, di sicuro, suoi conoscenti, il procuratore Hasterer, tra gli altri. Vuole venire? Venga, via!» K cercava di badare a quello che diceva il vice direttore. Non era per lui cosa da poco l'invito del vice direttore, con cui non era mai andato molto d'accordo. Significava un tentativo di riconciliazione da parte di quello e indicava quanto importante K fosse diventato nella banca. Ma K dovette far seguire una seconda umiliazione, dicendo: «La ringrazio molto, ma domenica purtroppo non posso, ho già un impegno.» «Peccato», disse il vice direttore, e si mise a parlare al telefono, ora che la comunicazione era arrivata. Non fu una conversazione breve, ma K, distratto com'era, rimase tutto il tempo vicino all'apparecchio. Solo quando il vice direttore riappese, trasalì e disse, per cercare di scusare almeno in parte la sua presenza superflua: «Mi hanno appena telefonato, dovrei andare in un posto, ma hanno dimenticato di dirmi a che ora.» «Si informi un'altra volta», disse il vice direttore. La domenica faceva brutto tempo. K era molto stanco. La sera aveva fatto tardi nel ristorante per festeggiare un compagno di tavolo. Corse il rischio di non svegliarsi. In fretta, senza avere tempo di riflettere e di coordinare i diversi piani cui aveva pensato durante la settimana, si vestì e, saltata la colazione, corse nel quartiere di periferia che gli avevano indicato. Aveva pensato di riconoscere la casa già da lontano, per un segno che lui stesso non riusciva a immaginare bene o per un movimento particolare davanti all'ingresso. Ma la Julius Strasse, in cui la casa doveva trovarsi e al cui inizio K si fermò un momento, aveva da entrambi i lati case quasi uguali, alte, grigie, case d'affitto, abitate da gente povera. K si addentrò adagio nella strada come se adesso avesse tempo o da qualche finestra il giudice istruttore lo vedesse e sapesse che si era presentato. Erano appena passate le 9. La casa era abbastanza distante, aveva una lunghezza poco comune. L'androne, in particolare, era alto e largo. K si avviò verso la scala per arrivare alla sala delle udienze, ma si fermò di nuovo perché, oltre a questa scala, vide nel cortile altri 3 ingressi di altrettante scale, e inoltre un piccolo passaggio sul fondo sembrava condurre in un secondo cortile. Si infastidì che non gli avessero indicato con maggiore precisione dove si trovava la sala. Strana la negligenza o indifferenza con cui lo trattavano. Aveva in animo di dichiararlo ben forte. Alla fine cominciò a salire la scala, giocando con il ricordo di quanto aveva detto la guardia Willem, che il tribunale era attirato dalla colpa, dal che seguiva che la sala delle udienze si doveva trovare nella scala che avrebbe scelto a caso. Nel salire disturbò molti bambini che giocavano sulla scala e lo guardarono male mentre attraversava la loro fila. «Dovessi tornare ancora», si disse, «bisognerà che porti zuccherini per conquistarli o il bastone per picchiarli.» Arrivato quasi al primo piano, dovette persino sostare un poco, finché una palla non ebbe finito di rotolare, trattenuto com'era per i pantaloni da 2 ragazzi con strani visi di bricconi adulti. Se avesse voluto scuoterli via, avrebbe dovuto far loro del male, e temeva le loro grida. La ricerca vera e propria cominciò al primo piano. Visto che non poteva chiedere della commissione istruttoria, inventò un falegname Lanz. Il nome gli venne in mente perché il capitano, il nipote della signora Grubach, si chiamava così, e decise di chiedere in tutti gli appartamenti se ci fosse un falegname Lanz per avere la possibilità di dare un'occhiata nelle stanze. Bussava agli appartamenti che avevano la porta chiusa e chiedeva se abitasse lì un certo falegname Lanz. Il più delle volte era una donna ad aprire. Ascoltava la domanda e si volgeva all'interno verso qualcuno che si alzava a sedere sul letto. «Questo signore chiede se abita qui un certo falegname Lanz». «Il falegname Lanz?» chiedeva quello del letto. «Sì», diceva K, sebbene lì non si trovasse di sicuro la commissione istruttoria e perciò il suo compito fosse finito. Prima del quinto piano, decise di interrompere la ricerca. Si congedò da un giovane simpatico operaio che voleva portarlo ancora più sopra e scese. Ma poi, indispettito per l'inutilità di tutta quell'impresa, tornò indietro ancora una volta e bussò alla prima porta del quinto piano. La prima cosa che vide nella piccola stanza fu un grande orologio appeso al muro che segnava già le 10. «Abita qui un certo falegname Lanz?» chiese. «Prego», disse una donna giovane dagli occhi neri e brillanti, che in un mastello lavava panni di bambini, e con la mano bagnata indicò la porta aperta della stanza vicina. Cappa forse non le avrebbe dato ascolto se la donna non fosse andata verso di lui, non avesse afferrato la maniglia della porta e non avesse detto: «Dopo di lei devo chiudere, nessuno può più entrare». «Giustissimo», disse Cappa. «Ma già adesso è troppo pieno». Ma poi rientrò lo stesso. In mezzo a due uomini che stavano parlando proprio vicino alla porta, uno faceva con le due mani allungate in avanti il gesto di contare soldi, l'altro lo guardava dritto negli occhi, una mano afferrò K. Era un ragazzetto dalle guance rosse. «Venga, venga», disse quello. K si fece guidare da lui nella ressa inestricabile e trovarono uno stretto passaggio ancora libero che sembrava dividere due partiti. All'altro capo della sala, ove venne condotto K, su una pedana bassissima, anch'essa piena di gente, era messo di traverso un tavolinetto dietro il quale, proprio sull'orlo della pedana, sedeva un piccolo uomo, grasso, ansimante, in atto di parlare, tra grandi risate, con uno in piedi dietro di lui che aveva appoggiato il gomito sulla spalliera della sua seggiola e incrociato le gambe. Solo quando una delle persone sopra la pedana ebbe richiamato l'attenzione sul ragazzo, l'uomo si volse verso di lui e, piegato verso il basso, ascoltò il messaggio appena mormorato. Poi trasse di tasca l'orologio e dette una rapida occhiata a K. «Si sarebbe dovuto presentare già da 1:05, disse. K voleva rispondere qualche cosa, ma non ebbe tempo, perché appena l'uomo ebbe finito di parlare, nella metà destra della sala si alzò un mormorio generale. «Si sarebbe dovuto presentare già da 1:05», ripeté l'uomo con voce più alta, gettando anche di sfuggita uno sguardo in basso nella sala. Subito anche il mormorio si fece più forte, e visto che l'uomo non diceva più nulla, si spense solo a poco. K aveva deciso di osservare più che di parlare. Rinunciò quindi a difendersi per il suo presunto ritardo e disse soltanto: «Anche se sono arrivato troppo tardi, ora sono qui». sempre dalla metà di destra della sala, batterono le mani ad applaudire. «Gente che si conquista con poco», pensò K, e si sentì infastidito dal silenzio della metà di sinistra della sala, che aveva alle spalle e dalla quale si era alzato soltanto qualche applauso isolato. Rifletté su quello che avrebbe dovuto dire per conquistare tutti insieme, oppure, se questo non era possibile, almeno per un po' anche gli altri. «Sì», disse l'uomo. «Ma adesso non sono più tenuto a interrogarla. In via eccezionale, tuttavia, oggi lo farò. Ma un ritardo simile non dovrà più ripetersi. E ora venga avanti». Qualcuno saltò giù dalla pedana e liberò un posto per Kappa, che lo occupò. Comodamente seduto sulla sua seggiola, il giudice istruttore non parve però avvedersi di questo. E detta un'ultima parola all'uomo alle sue spalle, prese in mano un libretto per appunti, l'unico oggetto sul suo tavolo. Aveva l'aria di un vecchio quaderno di scuola, sformato dal lungo uso. «Vediamo», disse il giudice sfogliando il quaderno e volgendosi in tono assertivo a Kappa. «Lei è pittore e decoratore?» «No», disse K. «Sono primo procuratore di una grande banca». Il lato destro in basso fece seguire a questa risposta una risata così piena che K dovette ridere a sua volta. «Lei mi ha chiesto, signor giudice, se sono un pittore decoratore. O meglio, non mi ha chiesto nulla, me l'ha piuttosto proclamato in faccia. E ciò è indicativo sul tipo di procedimento condotto contro di me. Lei potrà obiettare che non si tratta di un procedimento, ha ragione, perché è un procedimento solo se io lo riconosco come tale. Ma adesso per il momento lo riconosco quasi per pietà. Si può provare solo pietà, ammesso che lo si voglia prendere in considerazione. Non voglio dire che si tratta di un procedimento ridicolo, ma mi piacerebbe averle offerto questa definizione per una migliore conoscenza di sé. K si interruppe e guardò giù nella sala. Quanto aveva detto era tagliente, più tagliente di quanto volesse, ma anche giusto. Avrebbe meritato qualche applauso, ma tutti rimasero silenziosi, evidentemente ansiosi di sentire il seguito. Forse quel silenzio preparava un'esplosione che avrebbe messo fine a tutto. «Non serve a nulla», continuò K. «Anche il suo quadernino, signor giudice istruttore, conferma quello che dico». Soddisfatto di sentire solo le sue parole tranquille in quell'assemblea estranea, K osò persino togliere brusco il quaderno al giudice e tenerlo sollevato con la punta delle dita per una pagina di mezzo, quasi gli facesse schifo, mentre da una parte e dall'altra pendevano i fogli coperti di fitti caratteri, macchiati, con gli orli ingialliti. «Ecco gli atti del giudice istruttore», disse, e lasciò cadere il quaderno sul tavolo. «Continui pure a leggere tranquillo, signor giudice. Di questo suo libro, delle colpe, non ho nessuna paura, sebbene mi sia inaccessibile, dato che posso sollevarlo solo con due dita, e mai lo prenderei in mano». «Quello che mi è successo», continuò K con voce appena più bassa di prima, cercando sempre le facce della prima fila e conferendo perciò al suo discorso un tono alquanto distratto. «Quello che mi è successo è sì un caso isolato e come tale non molto importante, perché io non lo prendo molto sul serio, ma è il segno di un procedimento che viene applicato verso parecchi altri. Io qui mi batto per costoro, non per me». Senza volere aveva alzato la voce. Da qualche parte qualcuno applaudì con le mani levate e gridò: «Bravo! Perché no? Bravo! E ancora bravo!» Thank you. Non voglio un successo oratorio, disse K, mentre seguiva queste idee, che del resto non potrei nemmeno ottenere. Il signor giudice parla probabilmente molto meglio. Fa parte della sua professione. Quello che voglio è solo la discussione pubblica di un pubblico abuso. Mi ascoltino. Una decina di giorni fa venni arrestato. Sul fatto in sé dell'arresto io rido, ma qui adesso non si tratta di ciò. Venni sorpreso a letto la mattina presto. Da quanto ha detto il giudice, non escluderei avessero l'ordine di arrestare un pittore decoratore, innocente quanto me. Ma in ogni modo scelsero me. La camera vicino alla mia fu occupata da due rozze guardie. Fossi un brigante pericoloso, non avrebbero potuto prendere misure migliori. Le guardie, inoltre, erano gentaglia priva di morale. Mi riempirono le orecchie di chiacchiere, volevano farsi corrompere, volevano arraffarmi con false promesse, abiti e biancheria. Volevano soldi, con il pretesto di portarmi una colazione, dopo aver avuto la sfacciataggine di divorare davanti ai miei occhi la mia colazione. Non basta. Fui condotto in una terza camera davanti all'ispettore. Era la camera di una signorina di cui ho grande stima. E dovetti vedere come quella camera, per causa mia, ma non per mia colpa, in un certo qual modo fu insozzata dalla presenza delle guardie e dell'ispettore. Non fu facile mantenere la calma, ma ci riuscii e chiesi calmissimo all'ispettore, se fosse qui sarebbe costretto a confermarlo, perché fossi in arresto. Cosa rispose quell'ispettore che ancora adesso vedo davanti a me, seduto sulla seggiola della signorina prima rammentata, come un'immagine della presunzione più ottusa? Signori miei, in fondo non rispose nulla. Forse non sapeva davvero nulla. Mi aveva arrestato ed era soddisfatto. Fece ancora altro, portando nella camera di quella signorina tre impiegati subalterni della mia banca, che misero le mani su fotografie di proprietà della signorina e le scompigliarono. La presenza degli impiegati aveva, naturalmente, anche un altro scopo. Come la padrona di casa e la donna di servizio, essi dovevano diffondere la notizia del mio arresto, ledere la mia reputazione e, in particolare, scuotere la mia posizione in banca. K a questo punto si interruppe. E guardando verso il giudice, rimasto silenzioso, credette di notare che quello, con un'occhiata, faceva segno a qualcuno in mezzo al pubblico. K sorrise e disse: «Il signor giudice ha appena fatto a uno di loro, qui, vicino a me, un segno segreto. Tra di loro ci sono dunque persone che sono dirette di quassù. Non so se il segno doveva provocare fischi o applausi. E rilevando la cosa prima del tempo, sono ben consapevole che rinuncio a conoscere il significato di quel segno. Mi è del tutto indifferente. E autorizzo pubblicamente il signor giudice a dare ordine ai suoi impiegati pagati lì sotto, invece che con segni segreti, a voce alta, dicendo per esempio: adesso fischiate, oppure adesso applaudite». Per imbarazzo o impazienza, il giudice istruttore si agitava sulla seggiola. «Sono quasi alla fine», disse K, battendo il pugno sul tavolo, visto che non c'era campanello. La testa del giudice e quella del suo consigliere, per lo spavento, si allontanarono all'istante una dall'altra. «Tutta la faccenda non mi tocca. Per questo posso giudicarla con calma. E posto che a loro importi qualcosa di questo presunto tribunale, possono trarre grande vantaggio dandomi ascolto. Li prego rimandare a più tardi le loro discussioni su ciò che espongo, perché non ho tempo e sto per andarmene». Thank you.